È un progetto scolastico. Sì. Anche con il microfono. Ditemi. Siete qua di Tione? Sì. Abitiamo a Tione. Sì. Come si sta a Tione? Bene. E secondo lei, gli adulti come vedono i giovani, tutti i due punti di vista? Ma io penso bene, cioè almeno da parte mia io vedo molto bene. Siete il nostro futuro, spero bene. E invece il contrario, come i giovani vedono gli adulti? Secondo voi? Secondo me? Ma io i rapporti con i giovani sinceramente è positivo, sia dalla mia parte che dalla parte loro con me, anche perché io mi adeguo facilmente, cioè nel senso non sono uno che mi si fa grossi problemi nella vita. Invece secondo lei? Lei gira ben poco adesso, è sempre in casa. Ma proprio come lei pensa che adesso la nostra generazione vede i... Quelle della tua età, come ti vedono? No, della mia età, sì, gente, non conosco ancora nessuno. Gira poco lei, fate domande a me più che altro, perché lei proprio, lei sta, ci sta a casa molto. Oh, grazie mille. A posto, grazie, ciao ciao.